Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con i libri di economia. Oggi parliamo con Roberto Petrini. Buongiorno Petrini. Buongiorno direttore. Roberto Petrini è giornalista di Repubblica e ha suo attivo altri libri oltre a quello di cui parliamo oggi, per esempio Il declino dell'Italia, l'economia della pigrizia degli anni scorsi, ma questa volta si è voluto cimentare con Il processo agli economisti, economisti che peraltro sono definiti i nuovi padroni del mondo, a chi abbiamo affidato il nostro benessere. Ecco perché i guru del liberismo hanno fallito. Roberto Petrini ha avuto un grande successo anche al Festival di Trento, il suo libro Il Festival dell'Economia è stato tra i più venduti, tra quelli presenti alla manifestazione, un grande interesse. A Trento si è svolto anche un processo parallelo agli economisti, in cui gli economisti non ne sono usciti molto bene, sono stati sostanzialmente condannati. Allora Petrini, perché un processo agli economisti? Ma sostanzialmente ho seguito il mio vecchio fiuto di cronista. Sentivo che nell'aria c'era qualcosa che non funzionava. La crisi del 2008 aveva posto all'indice naturalmente le banche, gli operatori di Wall Street, gli hedge fund, le società di rating. Un po' tutti erano finiti nel tritacarne, giustamente, perché ciascuno ha le proprie responsabilità. Però io da cronista economico, un lavoro che faccio da più di 20 anni, mi sono chiesto: ma chi ispira, chi crea l'architettura di questi meccanismi? Cioè, esistono delle teorie? E mi sono messo a scartabellare, ho cominciato a chiedere agli amici economisti, ho intervistato alcuni economisti pentiti che mi hanno rivelato un po' i segreti della loro professione, e ne è venuto fuori quello che onestamente ho deciso di intitolare Processo, un processo aperto dal quale naturalmente io non tiro i giudizi, ma insomma che elenca tutta una serie di capi di imputazione. Appunto, ci sono ben 6 capi di imputazione in questo processo. Gli economisti sbagliano le previsioni, hanno perso il contatto con la realtà, hanno creduto troppo al dio mercato, hanno troppo potere, sono incapaci di comunicare, hanno smesso di sognare. Ma quindi gli economisti devono rispondere di questi capi d'accusa, però in fondo, per cominciare a parlare di questo processo, non è anche perché si è chiesto agli economisti un po' troppo? Gli economisti dovrebbero essere un po' come i filosofi, cercare di spiegare la realtà, invece si è chiesto loro di fare i profeti, di fare delle previsioni, e le hanno sbagliate. Diciamo che sì, sono d'accordo con te, nel senso che gli economisti si sono arrogati insomma il diritto di essere in prima fila. La stagione degli economisti dura ormai da 20-25 anni, da quanto sul palcoscenico mondiale l'economia è diventato l'argomento principale, e lo è diventato con l'avvento del neoliberismo, con la scuola di Chicago, con tutta una serie di teorie e di filosofie che in qualche modo, diciamo la verità, hanno messo il mercato fine a se stesso al centro dello scenario globale e hanno un po' dimenticato invece l'uomo. Io sentivo l'altro giorno un bellissimo intervento di Michel Camdesus, che come tu sai è stato un importante direttore del Fondo Monetario Internazionale, quindi un uomo di finanza, non certo un uomo che ha vissuto nell'ombra. E lui ha parlato all'Università Gregoriana e ha, devo dire, ricostruito con grande accuratezza e con molti dettagli il percorso teorico che ci ha portato alla crisi di oggi, e l'ha attribuita con chiarezza alle teorie economiche che partono da Hayek e hanno trovato gambe in Reagan e nella Thatcher, che hanno cominciato a prendere piede negli anni Ottanta. Questo devo dire, siccome è una tesi che in qualche modo io raccolgo e riferisco e di cui sono sostanzialmente convinto, ho trovato conforto autorevole in una interpretazione di questo genere. Soprattutto perché il mercato è stato preso come modello di riferimento, non tanto come strumento d'azione, tenendo conto che nel mercato poi i protagonisti sono le persone, ma pensando che il mercato potesse essere astratto dalla realtà. Allora si sono applicate più formule matematiche che formule umane, cioè l'economia è diventata più una ricerca di modelli astratti che non una ricerca forse più psicologica o sociologica o addirittura antropologica. Assolutamente, io ho preso nota di una frase di Camdesus che mi è piaciuta molto. Ha detto: la cultura della dividità ha ridotto l'uomo ad un agente economico passivo, e direi che qui c'è molto degli errori che sono stati fatti negli ultimi anni. Ad esempio, voglio dire, anche nell'assegnazione dei premi Nobel, ma insomma nel 1997 è stato assegnato un premio Nobel a 2 economisti, Merton e Scholz, che avevano fondato e affondato un hedge fund, l'LTCM, insomma, ed essi stessi erano gli inventori, sono stati gli inventori del sistema dei derivati e della famosa formula che prevedeva, che consentiva o illudeva di poter prevedere il futuro, e questo, ecco, per tornare alla tua richiesta. Beh, ma forse non è tanto colpa degli economisti quanto del futuro, che non ha ubbidito un po' gli economisti di quello che avevano tracciato, quello che il solco... Parlano chiaro i dati, cioè, certo. Allora aboliamo naturalmente le previsioni. Se vogliamo abolire le previsioni, naturalmente chiediamo a tutti i grandi centri di ricerca internazionale di abolire le previsioni, ma qui nel giugno dell'anno scorso i fatti parlano chiaro, perché io mi appello alle cifre, non faccio discorsi teorici. Quando già Northern Rock con le sue file agli sportelli nell'autunno del 2007 si mostrava su tutte le reti internazionali, quando i due hedge fund avevano provocato il crollo di Wall Street dell'agosto del 2007, quando Bear Stearns era già fallita ed era stata nella primavera del 2008, quando tutti questi fatti erano successi, gli economisti, ovvero i grandi centri di previsione, l'OCSE, la Fed, la Commissione Europea, il Fondo Monetario, la JP Morgan, Lehman Brothers, tutti costoro stimavano per quest'anno, quando il PIL mondiale sta cadendo a precipizio, dei segni positivi. Qui non si tratta di fare delle previsioni puntuali, ma chi, nemmeno uno sciocco, chiederebbe all'economista di fare una previsione puntuale, ma dare un quadro di riferimento, mettere in luce quali sono le possibili potenziali devastanti di alcuni fenomeni come la bolla immobiliare, questo è dovere degli economisti, questo è il vero dovere degli economisti, che invece non hanno rispettato, altro che previsioni puntuali. Qui non è il gioco del lotto, qui certo. Si trattava, alcuni economisti lo hanno fatto, Paolo Silos Labini fin dal 2003 metteva l'indice sul debito privato americano, traeva questa considerazione, traeva questa osservazione da una profonda conoscenza dei meccanismi teorici dell'economia. Robert Shiller faceva questo, Fabrizio Galimberti, che è un economista che scrive sul tuo giornale, ha scritto un libro che si chiama Economia e pazzia, dove metteva in luce chiaramente che in un grafico bellissimo che io ricordo, metteva l'andamento delle grandi bolle che si sono susseguite nella storia, da quella dei tulipani, figuriamoci qua, del 1600 in Olanda, all'ultima delle dot-com. Ebbene, se noi sovrapponiamo quelle curve, vediamo che l'andamento è sempre lo stesso, crescita e poi giù a precipizio. Sì, la realtà si ripete, basta guardare al passato, leggere il passato e si potrebbe capire si potrebbero fare previsioni molto più azzeccate in un certo senso, cercando di vedere qual è la realtà, ma molto spesso si pensa che la realtà possa essere diversa da quella che poi realmente è, e c'è all'inizio di questo libro una frase di un anonimo in cui si dice: un economista è un esperto che verrà a sapere domani perché ciò che ha previsto ieri non si è verificato oggi, quindi è anche in ritardo sulle proprie previsioni. Ma è quello che sorprende, che non si parla solo di economisti in senso generale, teorici, ma anche di persone, appunto economisti, che hanno la gestione dei beni pubblici. Per esempio il governatore della Banca Centrale Europea Trichet, che non più tardi dell'estate dell'anno scorso alzò i tassi pensando che si fosse di fronte a un piccolo rallentamento e non alla recessione. Assolutamente, voglio dire, le cattive teorie spesso mietono molte vittime. Nel senso che l'errore della Banca Centrale Europea è un po' sotto gli occhi di tutti. Come tu ricordavi giustamente, i tassi furono alzati da 4% al 4,25% quando la crisi già stava diffondendo i propri effetti devastanti, e credo, immagino che questo non sia stato un atteggiamento positivo. E al tempo stesso invece chi gridava al lupo, come facemmo noi pubblicando l'articolo Noi di Repubblica, fammi citare il mio giornale, pubblicando nel febbraio dello scorso anno l'articolo di Nouriel Roubini, che invece aveva ben capito dove stavano andando le cose. Parlava di 12 passi verso la crisi e elencava nel dettaglio tutti i vari meccanismi che portavano dai titoli salsiccia ai CDS e a tutto il resto dell'armamentario mefitico che noi ben conosciamo. Ebbene, molti lo soprannominarono Dottor Doom, cioè Dottor Sventura, dicevano: questo porta rogna, stiamo nella larga. Invece aveva ragione. Ecco, quindi per concludere, c'è qualcosa che non funziona. Per concludere, Petrilli, comunque alcuni economisti che hanno segnalato la crisi ci sono stati, per esempio ricordi Marco Vitale nel tuo libro, che hanno segnalato le difficoltà, gli squilibri dell'economia internazionale. Spetta anche a chi legge, a chi è protagonista dell'economia, saper cogliere chi segnala la crisi non come una Cassandra quando c'è bisogno, e non voler a tutti i costi dipingere il mondo come non è. Io ringrazio Roberto Petrini, autore del libro Il processo agli economisti, edito da Chiare Lettere. Richiede un investimento di 13,60 euro, ma è un libro che si legge di un fiato, un libro adatto anche per rinfrescarsi un po' sotto la calura estiva, anche se appunto ci sono degli esempi, diciamo, terribilmente utili per capire la realtà economica, una realtà economica che è molto complessa, che è molto difficile, ma che poi in fondo tutti noi, più che gli economisti, possiamo costruire. Grazie Petrini. Grazie, grazie a te direttore. Bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Roberto Petrini del suo Processo agli economisti. Ora andiamo a parlare da un'altra parte. Non parliamo tanto di economia e di economisti, ma parliamo di un libro che si intitola Chi va piano, e poteva scriverlo solo Bruno Contigiani, che non a caso è l'ideatore della Giornata Mondiale della Lentezza. Buongiorno Contigiani. Buongiorno a Radio 24, buongiorno Fabi. Grazie mille. Piccole alchimie per grandi sentimenti. Questo libro, Chi va piano, fa un po' il seguito ad un altro libro che avevi scritto, Vivere con lentezza, dove c'erano un po' tutti i parametri di questa nuova filosofia della vita, di prendersela, anzi di non prendersela troppo di fronte alle cose e di guardare un po' al mondo cercando di andare all'essenziale senza arrabbiarsi troppo. Questo libro fa un passo in avanti, non è tanto un libro di economia, anche se forse l'economia con la E minuscola fa parte del vivere con lentezza. È un libro tra la psicologia e la vita quotidiana, parla di relazioni familiari, di relazioni personali, ci sono tanti aneddoti. È un libro che è fatto per essere venduto, ma perché dovrebbe essere comprato? Bruno Contigiani. Ma questa è una piccola antologia di sentimenti in cui salta fuori un po' che l'andare piano in un mondo che corre sempre più forte è l'unico sistema per riuscire a valorizzare i sentimenti sia nel rapporto di coppia che in una famiglia di qualsiasi tipo, a strati o di genere, o una famiglia verticale o orizzontale, e nei rapporti con i figli oppure nell'amicizia. Quindi rallentare ci consente di in qualche modo riassaporare i nostri sentimenti fondamentali e soprattutto anche per decidere e conquistare, magari con un po' di senno. Con un po' di senno conquistare quali compagnie frequentare, quali amicizie avere, come coltivare le amicizie, come coltivare anche la propria famiglia, ma è il tutto visto appunto nell'ottica del vivere con lentezza. Del vivere con lentezza vuol dire non sopravvalutare i problemi e cercare di vedere, una volta si diceva forse con filosofia, delle cose che accadono. Sì, renderci conto che la fiducia, non una fiducia che sia un ottimismo a ogni costo, una fiducia che si basa su quello che è stato fatto nel passato, cioè abbiamo superato delle crisi gravissime, c'è chi dice che questa crisi sia forse la più grave che abbiamo vissuto, però io credo che l'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale non sia stata da meno. Quindi capire che ce la possiamo fare, capire che forse uscendo dal coro, uscendo anche dal gruppo e trovando un modo di vivere nostro un po' anticonformista, basato sulle relazioni interpersonali, sulle relazioni sociali, sulle relazioni con le persone che possiamo anche costruire, perché è vero che la solitudine è un fatto che in qualche modo attanaglia la società, così come la depressione, però è anche vero che si può infrangere questo momento di difficoltà anche cominciando da noi stessi, cominciando a salutare la gente per strada, cominciando a parlare, perché in fin dei conti le persone sono lì solo ad aspettare di essere avvicinate. Ecco, in questo senso la Giornata Mondiale della Lentezza mi pare che sia arrivata alla sua terza o quarta edizione? Sì, andiamo per la quarta, e l'anno 21 l'evento clou di una settimana sarà a Shanghai. Scegliamo ogni anno una città per definizione frenetica, una città per definizione di corsa, proprio per capire se anche in queste situazioni l'aspetto della fretta, l'aspetto dell'andare di furia può essere in qualche modo limato. E tra l'altro credo che l'economia sarà al centro proprio di queste giornate che faremo a Shanghai, perché affronteremo i temi della green economy, affronteremo i temi della cooperazione, e così come è successo a Tokyo speriamo che i cinesi questa volta sappiano in qualche modo riprendere un rapporto con il tempo che forse in passato avevano molto buono e che adesso non riescono più a riacciuffare. Infatti dici nel 2010 andremo a fare due chiacchiere sul tempo e sulla felicità per le strade e per gli uffici di Shanghai. Come direbbe anche Sally, la simpatica sorella di Charlie Brown, si salvi chi può. È un po' una provocazione andare a parlare di lentezza, del senso del tempo e di felicità in un ambiente come quello cinese in cui appunto, come dicevi, c'è frenesia, c'è voglia di conquistarsi un futuro che forse in passato sembrava molto lontano e che ora sembra a portata di mano. E questo però è un po' un voler essere un profeta in delle zone in cui questa profezia ha forse qualche difficoltà ad essere accolta. Beh, del resto non saremmo dei profeti o degli evangelizzatori se non andassimo, certo che se andassimo, voglio dire, nel deserto sarebbe più facile, però no. E comunque la parola stress è entrata da pochissimo tempo nel vocabolario cinese. Sapete che il dizionario cinese è un dizionario per accumulazione, cioè le parole vengono in qualche modo acquisite, cioè più si studia e più parole si sanno. La parola stress è entrata nel dizionario cinese proprio perché fino ad ora c'era semplicemente il lavoro, c'era la fatica, c'era il guadagnare. Oggi c'è un qualche cosa di più, cioè si guadagna, si sta bene, ci si arricchisce, però si comincia ad avere, a soffrire, diciamo, quello per cui si lavora in questo modo così esasperato. E quindi forse qualcheduno che ci ascolta lo troveremo. Ecco, tu nel libro ricordi per esempio il motto di Sant'Agostino: prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te. Ecco, una formula, comunque poi dici la ricetta magica, la formula magica ancora non c'è, ma alcuni punti fermi li abbiamo messi. Quindi un po' di fiducia nella provvidenza, ma insieme anche un pensare che appunto aiutati se vuoi che Dio ti aiuti. Quindi in un certo senso un recupero anche della capacità personale di porsi davanti alle cose, di essere un po' protagonista del mondo che ci circonda. Beh, certamente, insomma, noi non possiamo pensare oggi che lo Stato, i governi provvedano a noi, quindi quello che bisogna fare è, se vogliamo fare un circolo culturale, cominciare a farlo a partire da un bar e a partire da un libro. Se vogliamo passare dei momenti felici con i nostri figli, probabilmente basta un prato, e quindi di lì si innesta una certa viralità, direi, cioè il fatto che ci saranno più persone che in qualche modo capiranno che il primo passo va fatto da soli, dopodiché gli altri passi si fanno in compagnia e magari poi arriveranno invece le strutture, le istituzioni e così via. Però questa responsabilità dobbiamo in qualche modo recuperarla, è un po' quello che con gli anni, con questa crescita violenta e veloce che ha avuto il nostro paese, abbiamo dimenticato. Io non credo che i nostri nonni e i nostri padri aspettassero che il governo o lo Stato gli facessero le cose, partivano, le facevano, magari in qualche modo, dopodiché le cose seguivano. Ecco, quindi è una volontà anche di riprendere l'iniziativa, di riprendere l'iniziativa personale. Se nel libro si legge, non è sempre agevole, meccanico o scontato, ma è un paziente, quotidiano e certosino lavoro che ognuno di noi ha iniziato da anni e che è contento di portare avanti, perché i risultati sono evidenti e la vita è più facile, anche quando le cose girano per il verso sbagliato, non girano proprio. La questione è dove, come e facendo cosa vogliamo invecchiare per vivere al meglio anche quella stagione della vita che prima o poi arriva per tutti e che inevitabilmente porterà con sé delle limitazioni. Tanto per capirci, è ancora il libro che lo dice, Bruno Contigiani, per ora abbiamo deciso che la nostra vecchiaia inizierà quando saremo attorno agli 80 anni. A volte, tanto per fare gli scemi, ci spingiamo fino ai 90. Ecco, però è una realtà, Bruno Contigiani, che questa vita si allunga, abbiamo aggiunto più anni alla vita, abbiamo cercato almeno complessivamente, poi qualcuno purtroppo muore anche un po' prima, ma complessivamente la vita, la vecchiaia si allunga, forse questa vecchiaia è più da godere che non un tempo in cui commemorare. Sì, certamente, soprattutto è un tempo in cui io credo che le persone come me e come altri debbono continuare un po' a lavorare, a insegnare, a educare. Quindi non pensare diciamo alla terza età o comunque ai tempi in cui saremo più maturi come a dei momenti di semplice pausa in attesa di che cosa, non so, in attesa forse della morte. Quindi io credo che le persone andrebbero in un certo senso proprio recuperate sia per le loro capacità che per le loro professionalità, e io penso di continuare a lavorare, mi piacerebbe lavorare proprio, certo, riducendo la quantità dello stress, riducendo anche la quantità del lavoro, però il più avanti possibile. Questo non è per un'ansia di guadagno, ma è proprio perché credo che il lavoro e la fatica abbiano comunque un loro ruolo nell'ottimismo della persona. Ecco, c'è una frase molto significativa in questo libro: c'è l'umanità intera nella via sotto casa o ai quattro angoli del mondo che è in attesa di un nostro gesto, di un nostro pensiero, di una nostra parola. Ecco, forse è un po' ambizioso pensarlo, però in ogni circostanza forse qualcosa che noi possiamo fare per dare un piccolo significato in più anche alla vita degli altri può essere un gesto utile per far fare un passo in avanti, per capire un po' meglio quale può essere la felicità di ciascuno. Sì, sono piccole cose, sono piccoli gesti che partono sempre da noi. Fuori c'è il mondo, si tratta di scoprirlo, e questo non è per essere dei contenti delle persone, delle vispe terese, insomma, per capirci, ma in realtà è proprio un primissimo passo che possiamo fare. E poi se la prima volta non va bene ce ne saranno delle altre, ci sarà una seconda, ci sarà una terza, però questo coraggio, diciamo, di educare anche nei confronti dei giovani, anche certe volte magari di essere un po' sgarbati, cioè di riprendere un ragazzo per strada che butta una lattina, o di riprendere qualcheduno che fuma in un luogo chiuso, credo che siano gesti che tutto sommato riconducono a una responsabilità sociale e civile che ognuno di noi aveva dentro e ha dentro, e che deve trovare la forza un pochino di far emergere. Grazie Bruno Contigiani. Nella controcopertina di questo libro c'è scritto: prendi il tuo tempo e affronta la vita a passo d'uomo. La felicità personale da sola non ha molto senso, la felicità non può che essere relazionale. E abbiamo parlato con Bruno Contigiani del libro Chi va piano, edito da Rizzoli, costa 15,50 euro, è un libro di riflessioni che si può leggere tranquillamente sotto l'ombrellone, ovviamente pagina dopo pagina, piano piano. Grazie a quanti ci hanno seguito, alla prossima puntata.